di questo brano di Marco, capitolo 11, vorrei commentare solamente i versetti 24-25, i finali, in cui si parla della preghiera e si dice, Gesù dice, quando ci mettiamo a pregare dobbiamo perdonare se abbiamo qualcosa contro qualcuno, affinché anche il Padre vostro perdoni le vostre colpe e dunque possa esaudire le nostre invocazioni. Io credo che tante delle nostre preghiere non sono ascoltate proprio perché noi non abbiamo l'animo libero dal peccato, del rancore, del non perdonare. E io vorrei proprio assicurare che quello che dirò non è un'offesa al mondo femminile, ma questo lo dico perché poi offro anche questa Santa Messa pregando soprattutto per le donne, il mondo femminile, ma la mia esperienza mi insegna che questo vale soprattutto per il carattere femminile, non dico le donne, perché non è giusto generalizzare, come non si può dire gli italiani sono, i tedeschi sono, però che ci sia nel mondo femminile, nel carattere femminile, una difficoltà più grande che non nel mondo maschile a perdonare, questo ormai è assodato e vi porto alcuni piccoli esempi. In caso di litigio tra coniugi è abbastanza normale che la donna vada a prendere cose di 20, 30, 40 anni fa, cosa che in genere l'uomo non fa. Ma allora se le ricordi ancora non hai perdonato. Ed è facile sentire, ma no, ma io ho perdonato. Ma se uno non dimentica, non può dire di avere perdonato fino in fondo. Poi avete mai sentito, capita, ma è rarissimo, che litigano i generi e i suoceri, ma le nuore e le suocere è pane quotidiano. Perché questo? Perché la donna, bisognerebbe poi dire tutte le doti, il mondo femminile che ha, il mondo femminile è eroico, noi maschi non siamo capaci. Il mondo femminile ha una generosità verso i bambini che il mondo maschile non ha, ha una capacità di servizio per gli anziani che il mondo maschile non ha, ma anche ha una puntigliosità che il mondo maschile non ha. E leggevo una bella frase di Sant'Ambrogio di 1600 anni fa, che diceva: il puntiglio non è questione di giustizia, ma è questione che offende la carità. Ed è vero, no? Il puntiglio. E poi soprattutto, questo lo so io, forse non, molta gente non lo sa, ma quando io come esorcista incontro fatture, malocchi, è sempre fatto dalla donna, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, al 100%. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tirate voi le conseguenze. Augurare del male, questa è la fattura, la maledizione, il malocchio, tutte parole che, amici, sono vere e io le incontro quotidianamente. Questo è sempre fatto dal mondo femminile. Allora io vi prometto una preghiera perché il mondo femminile conservi tutte le doti grandi di generosità, di bontà, di bellezza che ha, ma che sappia, con l'aiuto di Dio, superare quegli attacchi di giudizio, di litigio, di cattiveria e di puntigliosità che troppe volte tengono prigioniere tante donne.